Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Siamo un po' in ritardo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ma puntualmente vi racconterò la giornata come è andata oggi nella prima parte e poi diversi argomenti da trattare insieme agli ospiti che ci saranno in diretta. Oggi sapete, naturalmente, il giorno dedicato alle Forze Armate, all'Unità d'Italia, e c'è un'iniziativa che è partita praticamente 4 minuti fa, una tempesta di tweet storm sui due marò che sono ancora trattenuti in India. È un'iniziativa che hanno lanciato prima in internet una comunità di sostenitori dei due marò e che dovrebbe adesso sbarcare su Twitter proprio 5 minuti fa, partiva alle 21. Qualche tweet cercherò di leggerlo durante la puntata qui e là, e se volete c'è anche sempre la pagina di Effetto Notte, effettonotte_Roberta Giordano, per fare anche lì i vostri commenti sui marò. Già ne vedo due, uno pro e uno contrario. Uno che dice: per quanto possa cercare di capire gli sforzi, dice Domenico Alberto, per via diplomatica di farli entrare in patria, mi riesce difficile comprendere come due soldati nell'esercizio delle proprie funzioni contemplato dal diritto a norme internazionali si trovino ancora in India. In Italia, dove vige lo stato di diritto, potrebbero ugualmente essere processati. Mentre Floriano dice: hanno comunque ucciso due pescatori, faccio fatica a credere che una barchetta potesse dare problemi a una nave di quelle proporzioni, poi ci sarà un processo, quindi aspettiamo gli esiti, e conclude: io non li assolvo a prescindere. Quindi potete anche commentare qui, altri li leggerò direttamente su Twitter, ma le notizie sono sempre tante, quindi cominciamo prima dai titoli dei fatti principali. Cominciamo dall'economia. Sulla crescita ci sono posizioni diverse tra il ministro Saccomanni e l'Istat, e poi vedremo. Il caso cancellieri Ligresti: domani la ministra della giustizia riferirà in Parlamento sulla vicenda del suo interessamento al caso di Giulia Ligresti. E poi le tensioni nel PDL: il segretario Alfano dice il candidato premier andrà scelto con le primarie, ma Fitto lo ferma, lo stoppa. Lega: Umberto Bossi ha sciolto le riserve e si candida alla segreteria della Lega Nord al prossimo congresso federale del movimento in programma in dicembre. E poi l'ho detto, i due marò in India, tempesta via Twitter stasera per chiederne la liberazione. E c'è, dopo vedremo con gli aggiornamenti, questa notizia, l'ennesima, che riguarda gli Stati Uniti, con un presunto uomo armato che si sarebbe barricato all'interno dell'università del Connecticut, più precisamente nel dormitorio femminile. Non sembra abbia ostaggi, però man mano poi seguirò anche le agenzie. E adesso allora partiamo, come da titoli, dall'economia e dai dati contrastanti, almeno così in apparenza, poi chiariremo più tardi anche con un ospite, tra Istat e Ministero del Tesoro. Un taglio di forbici alle stime del governo per il 2014 che non piace al ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni, che da Londra ribatte: abbiamo opinioni leggermente diverse. I dati diffusi questa mattina dall'Istat sulla crescita dell'Italia nel 2014-2013 sono differenti in effetti da quelli contenuti nel documento di economia e finanza. Secondo l'Istituto di Statistica, il prodotto interno lordo crescerà dello 0,7% il prossimo anno, dopo una contrazione dell'1,8 alla fine di quest'anno. Il governo invece aveva previsto una recessione dell'1,7 nel 2013 e una crescita dell'1% per il 2014. Noi riteniamo che l'effetto, la differenza, che poi è una differenza modesta, sia essenzialmente dovuto all'attività del processo di riforme strutturali che abbiamo intrapreso e anche alle misure che abbiamo preso per il rimborso dei debiti delle pubbliche amministrazioni, che sta procedendo molto bene. Quindi non so come, in che misura l'Istat tiene conto anche di questi fattori. Intanto peggiora per l'Istat anche il tasso di disoccupazione, a quota 12,1 nel 2013 e 12,4 nel 2014. In questo caso le stime risultano sostanzialmente in linea con quanto previsto dal governo. Infine, nell'anno in corso, secondo gli economisti, la spesa delle famiglie dovrebbe segnare una contrazione del 2,4%. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo alla politica, con in primo piano ancora il caso cancellieri. Dura tutt'oggi, domani c'è la difesa della ministra in Parlamento, che per i 5 Stelle deve lasciare l'incarico. tutto nel pomeriggio di domani, prima al Senato, poi alla Camera. Il ministro della Giustizia dirà la sua sulla vicenda Ligresti. È convinta Anna Maria Cancellieri, e lo ha ribadito ai collaboratori di Via Renula, di non aver tradito il ruolo di ministro. Nessuna violazione di legge, nessuna interferenza sui magistrati. Intervenire nei confronti di Giulia Ligresti era un dovere, non per il cognome o l'amicizia con la famiglia, ma perché, come già in altri casi, non farlo sarebbe stata un'omissione. Il ministro avrebbe comunque ribadito: non mi faccio intimidire dal metodo boffo. A fianco del ministro, seppure con alcuni distinguo i partiti della maggioranza, la Cancellieri, come Berlusconi, dicono dal Popolo della Libertà, così Cicchitto. Questo percorso, secondo me, non può essere attaccato e contestato, al di là delle amicizie personali che ognuno di noi è libero di avere. Il paragone con il caso Ruby è ridicolo, commentano dal PD, Partito Democratico che vede comunque posizioni critiche nei confronti del ministro. Più in generale, da Largo del Nazareno chiedono chiarezza, lo spiega il capogruppo in Commissione Giustizia Verini. Quello che conta è che ogni ombra su possibili comportamenti irregolari venga fugata davanti al Parlamento. Dal Movimento 5 Stelle arriva invece una mozione di sfiducia per la Cancellieri. La telefonata del ministro, viene spiegato, è un'ombra indelebile sulla figura istituzionale. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ma sentiamo allora direttamente la ministra Cancellieri oggi, che cosa ha detto in conferenza stampa a Strasburgo, dov'era? Non mi sarei mai permessa di interferire con la magistratura. È una vita che non lo faccio, una vita che rispetto l'operato della magistratura, e quindi le falsità di questo genere andranno chiarite punto per punto. Non mi sono mai occupato di scarcerazione perché non avevo né il titolo per farlo, che sia chiaro, mentre avevo il titolo per occuparmi del carcere, perché quello del carcere era una mia responsabilità e io dovevo farlo. Poi che il carcere sarebbe fatto lo stesso, anche senza la mia segnalazione, è un fatto che si può dimostrare o che non si può dimostrare. Poteva anche accadere un momento di distrazione. E perché avere la coscienza di non avere compiuto tutto fino in fondo? Quindi quella era la mia responsabilità, ma sul resto, guardate, non lascio spazio. E su ogni di queste cose ribatterò punto per punto, perché non ho mai fatto nulla che non fosse il mio preciso compito. Non ho mai travalicato i miei compiti, e poi c'è un'ignoranza spaventosa, perché voi chiedete a uno del DAP se il DAP può scacciare qualcuno. Chiedetelo a chiunque. Cioè, chi dice questo è falso, bugiardo ed ignorante. E lasciamo per il momento da parte l'affaire Cancellieri e restiamo però sulla politica. Sul fronte interno dei partiti c'è sempre il PDL sotto i riflettori. Un anno fa erano finite con un nulla di fatto dopo la decisione di ricandidarsi presa da Silvio Berlusconi. Ora Angelino Alfano ci riprova e rilancia le primarie. Il nostro candidato premier andrà scelto con primarie il più aperte possibile, alle quali partecipi il più alto numero di simpatizzanti, ribadisce il segretario PDL, che nel nuovo libro di Bruno Vespa mette anche in guardia sulla nuova Forza Italia. Il nostro è sempre stato un movimento a guida e a prevalenza moderata. Non è un bene che finisca in mano a estremisti. Berlusconi non lo è, ma c'è il rischio che nella gestione quotidiana della comunicazione si prenda quella deriva, spiega Alfano. Parole che, in men che non si dica, alimentano un nuovo scontro interno con i lealisti. Il primo a reagire è Sandro Bondi. Per me Forza Italia è un patrimonio che non dovrebbe essere intaccato con dichiarazioni così avventate e radicali, replica il coordinatore del PDL. Ma a prendere le distanze da Alfano, sempre nel libro di Vespa, è anche Raffaele Fitto. Io ragiono sul dopo Berlusconi, il giorno in cui Berlusconi autorizzerà il dopo. A decidere che cosa si farà sarà ancora una volta lui, taglia corto il leader dei lealisti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E dal PDL spostiamoci al PD. Domani è prevista la riunione della segreteria del partito dedicata al tema delle tessere, per capire se l'esplosione anomala che c'è stata in questi giorni è stata circoscritta ad alcune realtà locali. Lo scontro tra candidati resta alto, anche se oggi Gianni Cooper lo ha fatto capire che non si impunterà ad oltranza nella richiesta di bloccare il tesseramento. E parliamo anche di province, perché si torna a parlare di taglio delle stesse e dei possibili risparmi. C'è un disegno di legge depositato alle Camere in Commissione Affari Costituzionali e va approvato al più presto, così ha detto il ministro degli Affari Regionali Graziano Del Rio, intervistato questa mattina in 24 Mattina. Ma noi abbiamo avuto un impegno della Commissione di un iter accelerato, il governo ha chiesto l'urgenza per dimostrare appunto che crede in questa riforma che riguarda non solo le province ma anche il sistema delle città metropolitane, una riforma attesa da 30 anni e anche un altro elemento molto importante, il tema del rafforzamento delle unioni dei comuni, cioè comuni piccoli che imparano a lavorare insieme. Quindi abbiamo avuto questo impegno, ci è stato garantito, e ovviamente il Parlamento deve discutere, può sì. discutere, è chiaro che se si arriva oltre quelle date si rischia poi di dover convocare di nuovo i comizi elettorali per le province. Cioè, quindi, se non si approva entro la fine dell'anno si rischia di in primavera di rinnovare quanti consigli provinciali? Tanti, credo. Tutti praticamente, tutti. Quindi il problema, cioè tutti, una buona parte, insomma tutti quelli che vanno a scadenza, che sono un 80%, e a questo punto sarebbe veramente, come dire, una beffa, è meglio allora dire che non si vuole fare questa riforma, è legittimo avere opinioni diverse. E adesso passiamo al caso di Duomerò. Vi dicevo che è partito dalle 21 questa tempesta di tweet che ogni tanto cercherò di seguire tra poco, e potete anche commentare sulla pagina Effetto Notte - Roberta Giordano. Dicevo, il caso di Duomerò con questa tempesta di il tweet storm che ha come hashtag, diversi hashtag, Marò, Italia alza la voce, liberi subito, non dimentichiamoli, e sono appunto i due fucilieri del battaglione San Marco, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Si prepara questa comunità a chiedere nel giro in queste ore, in occasione della festa delle Forze Armate, il rientro in patria dei Marò pugliesi trattenuti in India da oltre 600 giorni con l'accusa di aver ucciso due pescatori del posto scambiandoli per pirati. Del caso Marò ha parlato questa mattina anche il Capo dello Stato. Ai nostri Marò, la cui odissea ancora continua lontano dall'Italia, il più affettuoso saluto e l'assicurazione che non cessiamo di operare tenacemente per riportarli a casa. Il ministro Mauro, si è poi collegato proprio con i nostri due militari, due Marò, nel pomeriggio. Allora sentiamo l'appello accorato di Salvatore Girone. Sappiamo bene ancora quanta strada il governo deve fare per raggiungere il traguardo. Un traguardo che noi ancora non abbiamo dimenticato, ed è quello di tornare a casa. Sappiamo bene ancora quanti passi dobbiamo fare per raggiungere questo traguardo e quante ancora difficoltà e periodi duri dobbiamo trascorrere. Siamo a conoscenza di questo, ma in qualità di militari, con dignità, così come abbiamo sempre fatto, ci auspichiamo e speriamo di arrivare presto, di giungere presto questo traguardo, per poter dire ai nostri figli: papà sta tornando a casa. Ci sarà ancora occasione di parlarne durante la puntata, ma passiamo al processo per l'emergenza rifiuti in Campania. È stato assolto Bassolino e altri 27 imputati. Dopo le prescrizioni arrivano le assoluzioni con formula piena. Assolto l'ex presidente della regione Antonio Bassolino, assolta in pregilo, assolti tutti e 28 gli imputati. Nel processo più importante sui rifiuti in Campania sono stati tutti scagionati perché il fatto non sussiste o non costituisce reato. Non ci sono state frodi nelle forniture né truffe allo Stato, non ci sono state violazioni contrattuali né falsi in quella gestione dell'immondizia degenerata in emergenza nei primi anni 2000. Pochi minuti dopo le 13 è il verdetto della quinta sezione penale a stabilire che per quell'immane tragedia campana, per dirla con le parole del PM Sirleo, non ci sono colpevoli. Assoluzioni piene nel merito arrivate dopo che già la procura aveva chiesto l'archiviazione per prescrizione della maggior parte dei reati, a cominciare da quelli contestati all'ex commissario straordinario per i rifiuti Bassolino, accusato soprattutto di non aver rescisso il contratto con le società vincitrici degli appalti. Assolte anch'esse insieme ai loro manager, e la Corte ha deciso pure il dissequestro dei siti. Dopo anni di sofferenza vedo riconosciuta la mia estraneità, commenta ora Bassolino. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Anche una notizia di cronaca: i carabinieri hanno arrestato Vincenzo Maurici, l'uomo che oggi ha ucciso con 23 coltellate la zia nel suo appartamento a Grugliasco, vicino Torino. Il coltello utilizzato per l'omicidio è stato trovato, su indicazione dello stesso aggressore, in un cassonetto della spazzatura. L'uomo ha seri problemi di tossicodipendenza. Chiudiamo con il calcio. Acque agitate al Milan dopo l'affondo di Barbara Berlusconi. Oggi c'è la silenziosa risposta di Adriano Galliani. Non faccio nessun commento, quindi il vecchio nessun commento che non si sbaglia mai. La storia, si sa, è fatta più dai no comment che da tante parole dette in libertà. E allora cosa ci sarà dietro al silenzio di Adriano Galliani il giorno dopo il cambio di rotta aziendale auspicato da Barbara Berlusconi in una telefonata con papà Silvio e poi reso noto a mezzo stampa? Di sicuro c'è la voglia di arginare la tempesta societaria e mediatica, e quella di rinsaldare un legame col presidente e amico che dura da oltre 30 anni, a fronte dell'assalto della figlia rampante. E qui entra in gioco Massimiliano Allegri. Un Milan impantanato in campionato, con la terribile trasferta di Champions a Barcellona in vista e con in calendario il potenziale scontro salvezza domenica a Verona col Chievo, ha bisogno soprattutto di risultati. Senza quelli Allegri non potrà essere difeso a oltranza e nel gioco della torre, fa intendere Gagliani, potrebbe essere proprio il tecnico a pagare per tutti. Tutti gli allenatori dipendono dai risultati. Se uno perde sempre all'infinito non c'è allenatore, è ovvio ed evidente questo, ma non credo che ciò succederà. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E vi ricordo intanto che stasera sono in campo Bologna-Chievo, posticipo del lunedì dell'undicesima giornata di Serie A. Bene, adesso ci fermiamo per un pochino per aggiornare chi viaggia, pochi istanti. Vi ricordo che potete fare sempre i vostri commenti sulla pagina Facebook Effetto Notte trattino Roberta Giordano, oppure potete mandare e partecipare a questa tempesta di tweet con gli hashtag su Twitter, hashtag per i due Marò, quindi con Marò oppure Italia alza la voce, liberi subito e non dimentichiamoli. Per esempio leggo che Palazzo Chigi dice, twitta che Palazzo Chigi, anche oggi 4 novembre lavoriamo per riportare a casa dall'India i Marò, Girone e la Torre. E poi sembrerebbe un Twitter dell'Unione Europea, ma che dice appunto non dimentichiamoli, quindi anche addirittura dall'Unione Europea. Continueremo a seguire dopo, tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi di nuovo qui con voi per raccontarvi la giornata, ma anche per iniziare adesso a parlare di alcuni argomenti in particolare con gli ospiti. Però, come sempre, come da tradizione, vi ricordo prima i titoli dei fatti principali. Partendo dall'economia, sulla crescita ci sono posizioni diverse tra il ministro Saccomanni e l'Istat, cosa che poi cercheremo di chiarire. Poi c'è il caso Cancellieri Ligresti, che invece sarà eventualmente chiarito domani, perché la ministra Cancellieri sarà in Parlamento a riferire su, appunto, sul caso di Giulia Ligresti. Le tensioni del PDL, il segretario Alfano dice il candidato premier andrà scelto con le primarie, ma Fitto lo blocca. Lega, Umberto Bossi ha sciolto le riserve, si candida alla segreteria della Lega Nord al prossimo congresso federale del movimento in programma in dicembre. Poi due Marò in India, tempesta via Twitter stasera per chiederne la liberazione. E saluto Pietro Batacchi, buonasera, direttore della rivista italiana Difesa. Buonasera a tutti. Buonasera, la rivista che è una pubblicazione, la pubblicazione leader del settore della difesa in Italia, che fornisce una panoramica internazionale di quella che è la difesa sia in Italia che nel mondo. Occasione della festa delle Forze Armate, Batacchi, per capire come anche sono cambiate nel corso del tempo, quali sono gli scenari anche internazionali dove sono più impegnate le Forze Armate italiane. Sa che c'è stata anche questa polemica su un disegno di legge che dovrebbe, l'hanno definito lo scivolo d'oro, no? Che dovrebbe mandare moltissimi cinquantenni fuori dal lavoro, quindi fuori servizio per 10 anni con l'85% dei stipendi. Però parliamo prima appunto di quelle che sono le caratteristiche oggi delle Forze Armate italiane rispetto al passato. Oggi le Forze Armate italiane sono formate da un esercito, da una marina militare, da un'aeronautica, da dei carabinieri che sono professionisti a 360 gradi, ovvero personale altamente addestrato, altamente consapevole del proprio ruolo, in particolare nelle missioni di stabilizzazione, nelle missioni di pace all'estero, dove i militari italiani, soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi 10, 15, 20 anni, hanno raggiunto risultati prima semplicemente inimmaginabili a livello di professionalità, di consenso. Forse perché c'era la leva Batacchi prima, no? Quindi non erano tutti professionisti. Ma non è soltanto una questione di leva, non leva di professionisti. Io quando parlo di professionisti intendo un militare altamente preparato, altamente motivato, che crede in quello che fa e che soprattutto, in particolare nelle missioni di pace, nelle missioni di stabilizzazione, ha dimostrato di svolgere il proprio compito al meglio, capendo i contesti, muovendosi in accordo con le realtà locali, le realtà istituzionali, le realtà culturali dei posti dove i militari italiani vengono impiegati, perché sostanzialmente il problema grande oggi delle missioni di stabilizzazione, oggi come come di qualche anno fa, è capire il contesto in cui i militari operano, e i militari italiani, per la preparazione che hanno, hanno comunque sempre dimostrato di operare al meglio. Non dimentichiamoci che oggi la NATO, ormai da qualche anno la NATO in Afghanistan usa il cosiddetto approccio comprensivo alla stabilizzazione, ovvero un approccio che mette insieme sia strumenti politici che strumenti militari. Chiaramente l'approccio comprensivo è ispirato a quello che è sempre stato l'approccio italiano alle missioni di pace, che preesiste alla professionalità e al professionismo dei militari, che affonda le sue radici sin dalle missioni in Libano del 1982, in cui i militari erano militari di Leo. Quindi ha parlato di Libano, Batacchi. Se dovessimo sintetizzare, appunto, in quali territori principalmente operano oggi i militari italiani? Noi ancora oggi il nostro impegno principale è quello in Afghanistan, dove ad oggi abbiamo ancora 3.000 soldati. Il prossimo anno la nostra presenza andrà completamente o quasi a ridursi. Vedremo poi quelle che saranno le decisioni che la NATO assumerà per il post 2014, ovvero la data che è stata fissata dalla NATO all'Alleanza Atlantica per il ritiro e il disimpegno dall'Afghanistan. È molto probabile che dopo questa data rimarranno ancora militari italiani in veste completamente nuove rispetto a quelle che abbiamo imparato a riconoscere negli ultimi anni, e che saranno vesti di personale che addestrerà e consiglierà soprattutto le forze armate locali e le forze armate afghane. Che percentuale di donne c'è a proposito di cambiamenti negli ultimi anni, no? Non so quale. Questo è stato un altro dei cambiamenti più importanti che hanno vissuto le forze armate italiane, quello ovviamente dell'ingresso del personale femminile nei ranghi nelle tabelle organiche delle forze armate. Noi abbiamo percentuali molto alte. Oltretutto noi, rispetto anche ad altri eserciti e forze armate occidentali che ben da prima di noi avevano personale femminile nelle forze armate, abbiamo personale femminile impegnato anche in ruoli di prima linea e non semplicemente logistici e di supporto. In questo senso le forze armate italiane sono state all'avanguardia negli ultimi anni, anche, ripeto, rispetto a forze armate che ben più tradizioni di noi avevano anche nel settore del personale femminile. Quando si parla di tagli, no, soprattutto di armamenti, gli F-35, sa che c'è da tempo anche questa polemica, no? In tempi di austerità, quali sono quelli che stiamo vivendo, che ne pensa? Hanno un impatto su quali ambiti della difesa? Guardi, io su questo ho sempre avuto una posizione molto, molto laica, molto, molto pragmatica, nel senso che alla fine lo strumento militare che un paese decide di avere è commisurato alle ambizioni che quello stesso paese decide di darsi in sede internazionale nell'ambito della politica internazionale. Questo paese, non da oggi, ormai da 20 anni, è un paese che vuole, per libera decisione delle sue istituzioni parlamentari, governative e così via, che vuole avere un ruolo di primo piano sulla scena internazionale, ovvero un ruolo in cui le nostre forze armate, in cui il paese intero vuole giocare una partita di primo piano nei contesti internazionali, per cui se questa è l'ambizione, se questo è ciò che vuole il paese e che ha voluto negli ultimi 20 anni, lo strumento militare deve essere conseguentemente tarato e conseguentemente calibrato. Chi sosteneva che l'Italia doveva essere una sorta di Costa Rica dell'Europa, a parte abbiamo visto che fine ha fatto, però fuori di polemica l'Italia non può essere un paese come il Costa Rica, perché l'Italia è al centro del mondo, è al centro del Mediterraneo, è al centro di un sistema comunque internazionale che è ancora oggi rischioso, in cui ancora oggi ci sono minacce di diverso tipo, dal terrorismo all'insicurezza. Abbiamo visto adesso come sono impegnati i nostri militari in operazione Mare Nostrum, per difendere, per gestire comunque l'emergenza di immigrazione clandestina e così via. se mettiamo assieme tutte queste minacce, se mettiamo assieme le ambizioni che questo paese liberamente ha deciso di darsi negli ultimi anni, di conseguenza noi dobbiamo per forza avere uno strumento militare. Investire. Questa cosa, perché sembra in realtà ci siano decreti attuativi della legge 244 del 2012, quindi cosa fatta, voluti questa legge da Giampaolo Di Paola, che allora era ministro del governo Monti nel 2012, dopo una carriera di ammiraglio, approdata su poi come capo di Stato Maggiore della Difesa. Questa riforma della difesa, appunto, per cui, come le dicevo prima, quello che è stato chiamato scivolo d'oro, cioè per i cinquantenni ci sarà l'esenzione dal servizio di 10 anni con l'85% di stipendio, e in un paese di esodati e di precari non so questa cosa come possa essere vista effettivamente, Batacchi. Sinteticamente, io mi rendo conto che il momento è quello che è, però il discorso dello scivolo, che il problema dello scivolo che ha sollevato il Corriere della Sera, se non sbaglio ieri, è uno degli strumenti che la riforma Di Paola prevede per arrivare a quella riduzione di personale immaginata appunto dalla riforma Di Paola, e che peraltro è un processo di contrazione, di razionalizzazione dello strumento militare che è immaginato su un trend che è in corso in tutta Europa, in tutto l'Occidente, dagli Stati Uniti che riducono alla Francia, alla Gran Bretagna. No, questo si devono ridurre di 35.000 uomini, anche se per gli altri settori in Italia, per esempio, non è previsto che ci siano questi scivoli d'oro con pensione e stipendio 85%. Ma proprio se si vuole uno strumento militare moderno in grado di rispondere a quei requisiti a cui facevo riferimento, non ci sono molte alternative. Poi ripeto, lo scivolo è solo uno degli strumenti previsti, poi ce ne sono 10 altri, si passa dal transito ad altre amministrazioni dello Stato, al transito ai ruoli civili. Sarebbe comunque un discorso lungo. Mi dica solo se vuole lanciare un messaggio per i Marò e poi dobbiamo chiudere. Grazie, Batacchi. Guardi, i Marò, purtroppo anche lì la nostra posizione è chiara. Noi auspichiamo che la vicenda si risolva nel più breve tempo possibile. L'unica questione è che noi da sempre abbiamo detto che purtroppo sono capitati in brutte mani, perché l'India da questo punto di vista ha dimostrato di essere un paese che, come dire, a livello di rispetto di diritto internazionale, a livello di rispetto di quella che è la convivenza internazionale, non ha certo nulla da non deve insegnarci certo nulla, sia il comportamento è stato quello che è stato. Lo spregio delle leggi internazionali che l'India ha fatto credo sia sotto gli occhi di tutti. Però ho dubito che la cosa si possa risolvere in breve tempo. Grazie Paolo Pietro Batacchi, intanto la ringrazio. Buonasera. Buon lavoro, buona continuazione. Abbiamo una pausa di pubblicità. Leggo ancora un tweet a proposito dei marodi, di questa pioggia che sta arrivando. E, per non turbare la serenità delle larghe intese, scrive questo anonimo, Italia alza la voce, verrà subito cambiato, in Italia cala le braghe. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Riprendiamo allora il filo delle notizie tra pochissimo, ricordandovi i titoli principali, e vi ricordo sempre che per le vostre opinioni, per i vostri pareri, le vostre domande c'è sempre la pagina Facebook Effetto Notte trattino Roberta Giordano, ma ripartiamo dalle notizie. Con l'economia, sulla crescita ci sono posizioni differenti tra il ministro Saccomanni e l'Istat. Poi il caso Cancellieri Ligresti, domani la ministra della Giustizia riferirà in Parlamento sulla vicenda del suo interessamento al caso di Giulia Ligresti. Le tensioni del PDL, il segretario Alfano dice il candidato premier andrà scelto con le primarie, ma Fitto lo blocca. Due Marò in India, tempesta via Twitter stasera per chiederne la liberazione. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, è cessato allarme all'Università del Connecticut di New Britain, dove si era barricato un uomo, un presunto uomo armato. La polizia ha appena riaperto ogni accesso all'Ateneo. Adesso parliamo di un argomento tutto molto molto italiano con Sergio Rizzo, che saluto. Ciao Sergio. Ciao, buonasera. Inviato editorialista del Corriere della Sera, dicevo l'argomento è quello delle province. Ormai c'è questo braccio di ferro tra il Ministero degli Affari Regionali, cioè tra il ministro proprio in persona degli Affari Regionali Graziano Del Rio e l'UPI, cioè l'Unione delle Province d'Italia guidata da Antonio Saitta. Questo perché? Perché c'è un disegno di legge depositato ancora per il momento lì alle Camere in Commissione Affari Costituzionali che vorrebbe fare piazza pulita delle province per fare un po' di tagli alla spesa pubblica, alla politica, però come potete immaginare il presidente delle province d'Italia non ci sta. Tu oggi tra l'altro sul Corriere, Sergio, riportavi dei dati sui calcoli che sono stati fatti su quelli che sarebbero i benefici da questi tagli, no? Si parla di miliardi praticamente, di quello che si potrebbe fare con quei soldi. Ma certo che quando si elimina un livello amministrativo cioè intanto c'è un risparmio sulla spesa corrente, no? In questo caso si parla di una massa di spesa aggredibile, così la definiscono, di 1.300.000.000 all'anno. Mm. Di questo 1.300.000.000 il 10% sarebbe la somma rappresentata dagli emolumenti dei vari consiglieri, presidenti, eccetera. Cioè quindi il livello politico. Ma il punto vero di questa riforma, che non va giù alla adesso non tanto a Saitta che fa un po' da parafulmine tutta questa situazione, l'ha detto il presidente della provincia di Torino, ma diciamo alla lobby, chiamiamola così perché lo è una lobby delle province, è il fatto che venga proprio eliminato il livello elettivo, cioè questi enti dovrebbero diventare degli enti di livello tecnico, no? Delle agenzie gestite dai sindaci, dei comuni, no? del territorio. Quindi non ci dovrebbe essere più politici, questo stiamo dicendo? No, ma non è politici, non ci dovrebbero essere più le elezioni, i consigli provinciali, eccetera. Politici continueranno a esserci perché nel momento in cui tu metti i sindaci, i sindaci sono espressioni politiche, certo. No? Però il problema è che tu hai bisogno di un ente di area vasta che gestisce alcune cose, ma non è necessariamente deve essere un ente elettivo, cioè dove i cittadini vanno a votare. Tenete conto che in Italia ci sono 6 livelli elettivi diversi, cioè un paese con 300.000 km quadrati, piccolo come l'Italia, ha 6 livelli elettivi, no? Dove ogni livello ha delle regole elettorali completamente diverse dal livello seguente. Quindi cioè, questo è un problema vero, non è che è un problema secondario. Però non ne facciamo solo una questione tecnica o di spendio per eleggere, per organizzare, non è solo la macchina delle elezioni. Perché poi è chiaro che nel momento in cui si elimina un passaggio amministrativo, un livello amministrativo, di conseguenza si eliminano le società per azioni che sono collegate a quel livello lì, si eliminano tutti i passaggi. Si eliminano le duplicazioni, per esempio, cioè le province oggi si occupano di incentivi alle imprese tali e quali le regioni, no? I comuni si occupano delle scuole, anche le province si occupano delle scuole. Quindi i doppioni, cioè, secondo me. In alcuni casi sono dei veri e propri doppioni che vanno eliminati, ovviamente, no? Questo è chiaro, senza prevedere che i dipendenti vengano licenziati perché poi passeranno ai livelli amministrativi che assorbiranno quelle funzioni lì, quindi da questo punto di vista dobbiamo stare tranquilli. Il punto ma è che si è sicuri che si può, scusa Sergio se ti interrompo, il problema di solito dello spauracchio agitato è proprio questo, tutti quelli che risulterebbero in esubero, eliminando le province o costituendole come spiegavi tu, tutto questo personale dove andrebbe a finire? Beh, andrebbe a occupare quei livelli amministrativi che vengono assorbiti o dalla regione o dai comuni. Dopodiché posso dire una cattiveria? Sì. Io non capisco perché quando si parla di esuberi nel settore privato, allora la gente si può licenziare tranquillamente, no? Nel settore pubblico no. No, allora spiegatemela questa cosa, perché io sinceramente comincio a non capirla bene. Se c'è un problema di esuberi, c'è un problema di esuberi. Allora non si capisce perché ci sono le fabbriche dove la gente viene messa in mobilità, invece le province no. No, questo è vero, tu dici per pareggiare una forma di equità, anche se è vero che qui in un botto migliaia di persone probabilmente. Ma non è che sono migliaia di persone, dipende dalle situazioni, no? I dipendenti delle province sono intorno ai 50.000, 50-60.000, parliamo di questo numero qua. In tutta Italia. È chiaro che non è che questa gente viene mandata tutta per strada, ma nessuno, sono convinto che nessuno verrà mandato per strada, attenzione, però quello che dico io come riflessione mia personale è: ma perché quando chiude una fabbrica vengono messi in mobilità gli operai, no? E invece quando si decide che una provincia è inutile non accade la stessa cosa? No, lì c'è una disuguaglianza che secondo me, io preferirei che nessuno venisse messo, ben inteso, sia ben chiaro, che nessuno venisse messo per strada, però cioè, è un'argomentazione che comincia a quello di chi dice, ma poi bisogna licenziare la gente, è un'argomentazione che comincio a considerare non più valida, francamente, visto quello che sta accadendo in Italia. A parte che l'hanno annunciata un po' tutti gli schieramenti nel corso del tempo, no? Questa cosa dell'eliminazione delle province. Senti, però, tu riportavi nel tuo articolo che dalle stime dei ministeri, a proposito dei benefici della soppressione delle province, per esempio, si creerebbero 11.300 nuovi posti negli asili nido italiani? Beh, non è che si creerebbero automaticamente, diciamo che il calcolo è quello che si risparmia sarebbe sufficiente a fare questo, no? Questo è il ragionamento che è stato fatto. Dopodiché sono calcoli che ha fatto il Ministero degli Affari Regionali, perché ma questo però non è, attenzione, perché quegli 11.000 posti di asili nido sarebbero ottenibili soltanto con il taglio del livello politico, cioè non con tutti i risparmi ulteriori, cioè semplicemente eliminando gli stipendi dei consiglieri regionali e del livello dei politici si potrebbe fare questa operazione qua, questo dicono loro, no? No, i risparmi sono molto, secondo quei calcoli sono molto più grossi, sono dell'ordine appunto del miliardo, cioè sono cifre immense per un paese che non riesce a tagliare neanche, no, non riesce a trovare i soldi per evitare l'aumento di un punto dell'IVA. Cioè parliamo di cifre che nelle nostre condizioni sono importanti. Quindi io credo poi che non sia soltanto il problema delle province, perché qui ci sarebbe da mettere mano alle regioni, soprattutto alle regioni. Però siccome bisogna tagliare da qualche parte, bisogna pure cominciare, e se abbiamo le regioni non si capisce perché dobbiamo avere anche le province elettive, attenzione, cioè dico non che non debba esistere un ente intermedio, esatto, ma non si capisce perché devono essere eletti con suffragio universale, cioè questo francamente mi sfugge, ecco. Vedremo, Sergio Rizzo, come va avanti questo braccio di ferro. Ci saranno naturalmente molte altre puntate, intanto grazie Sergio, buon lavoro. Grazie a voi, ciao Sergio. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano, sempre con voi. Tra poco parleremo di una sciagura che sta colpendo una importantissima regione, tutte importanti naturalmente le regioni italiane, ma questa per un prodotto in particolare, per quella che dovrebbe essere un'eccellenza italiana. Ma prima dedichiamoci ai titoli dei fatti principali. Partendo dall'economia, abbiamo detto che ci sono posizioni che sembrano differenti tra il Ministero dell'Economia, il Ministro dell'Economia Saccomanni e l'Istat a proposito di crescita. C'è il caso Cancellieri Ligresti, sempre in primissimo piano, domani la Ministra della Giustizia riferirà in Parlamento sulla vicenda. E poi le tensioni nel PDL col segretario Alfano che annuncia che il candidato Premier andrà scelto con le primarie, ma Fitto non ci sta. I due Marò in India, tempesta via Twitter stasera per chiederne la liberazione. Poi negli Stati Uniti, nell'Università del Connecticut, abbiamo visto che la polizia ha riaperto ogni accesso all'Ateneo, quindi l'allarme è passato. Saluto Paolo De Castro, buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, col quale vorrei parlare di quello che sta succedendo nel Salento ultimamente. Ci sono migliaia e migliaia di ulivi che sono vittime di un agente patogeno che si chiama Xylella fastidiosa, mai aggettivo fu più appropriato, anzi mi sembra piuttosto gentile per un batterio del genere, che sta falcidiando quella che dovrebbe essere la materia prima prima per un'eccellenza italiana che l'olio della Puglia. Che cosa succede quindi, sì, Paolo De Castro? Ma intanto precisiamo, si tratta di un batterio che quindi non si sposta da solo, ma ha bisogno di un vettore, e questo vettore sono delle farfalline, delle cicalillidi, sono delle piccoli lepidotteri che hanno un sistema per attraversare, diciamo, i peduncoli della pianta dell'ulivo e quindi innescare dentro il flusso, diciamo, linfatico, questo batterio. Il problema è serissimo perché il batterio è uno tra i più pericolosi. Non si avevano in letteratura casi analoghi in nessuna parte del mondo, salvo in California, ma non nell'ulivo, ma nei vigneti e negli agrumeti. E questo ne dà, diciamo, la preoccupazione principale, cioè non abbiamo purtroppo casi analoghi per sapere come affrontarlo, quindi. Per sapere come affrontarlo. Lui è drammatico e quelli sono i batteri classificato A1, cioè quelli che obbligo di quarantena, obbligano, diciamo, di mettere, isolare l'area e assolutamente evitare ogni spostamento di materiale vegetale. E quindi primo problema è appunto quello di identificare l'area, è solo quella del Salento, nelle province del sud-ovest del Salento, dei comuni a sud-ovest del Salento, o anche altrove. È più vasta, perché l'analisi è molto complicata, ci sono solo 3 laboratori in Puglia in grado di fare queste analisi e non è neanche facile, perché sono, ripeto, un'analisi complicata che richiede diverse ore prima di arrivare all'accertamento, diciamo, della presenza. È una corsa un po' contro il tempo, no, Paolo De Castro? Perché proprio se si dovesse espandere ulteriormente, già ha colpito 8.000 ettari almeno della Puglia, se non sbaglio. Sì, no? Tra l'altro, sì, circa 8.000 ettari si stima, ma sono delle stime, perché occorre fare un'indagine molto più diciamo ampia per poter evidenziare e bloccare l'area interessata. E ripeto, l'operazione è complicata e richiede un'ingente quantità di uomini, risorse, quindi la situazione è molto complicata. E per di più non sappiamo quanto tempo ci vuole dalla presenza del batterio alla sintomatologia, perché non è certo che anche ulivi infetti abbiano questa sintomatologia, quindi questo apre un'ulteriore difficoltà nella gestione di questa emergenza, che però va fatto subito, perché se non si blocca, non si identifica l'area e non si interviene immediatamente con l'eradicazione, il problema di una sua espansione è veramente drammatico. Questo per l'aggressione a questo batterio. Per quanto riguarda le risorse finanziarie, dall'Europa già è stato pensato, stanziato qualcosa? Sì. Sì, no, noi ci siamo sentiti più volte sia con il ministro Di Girolamo che con l'assessore Nardoni, che evidentemente stiamo cercando ognuno per la sua parte di dare una mano, evidentemente la responsabilità della regione è primaria, ma ha bisogno di risorse e il ministero sta facendo la sua parte. Come Europa sicuramente c'è una possibilità di ricorrere agli aiuti, in questo caso proprio per l'eradicazione della malattia, che consistono in un cofinanziamento europeo di tutte le spese fino a fino al 50%. E analogamente si potrà fare per i danni subiti agli agricoltori. Però ora quel che occorre, prima ancora che i danni, occorre immediatamente mobilitare uomini e risorse per cercare di definire l'area, di localizzare l'area infetta, essere certi che è solo lì e in nessun'altra parte. Dopo creare un'area tampone e attaccare i vettori, cioè queste farfalline, in modo che non ci sia possibilità di espansione. Dopo nell'aria bisognerà fare certamente un'attenta analisi di come si possono recuperare questi ulivi, se si possono recuperare quelli già infetti. Bisognerà fare un piano, ecco. Sì, un piano di reimpianto. Per chiudere, De Castro, ormai diciamo che quella era soprattutto la Puglia, ma c'è anche la Toscana, c'è la Liguria, altre parti d'Italia dove si produce olio d'eccellenza, anche se ormai si sa più o meno che l'Italia è diventata soprattutto una grande importatrice di olio, e poi da paesi come la Tunisia, la Grecia, la Spagna, no? Se noi perdiamo anche quello che di genuino c'è, perché ci sono tanti bravi produttori pugliesi. Per carità, non voglio neanche pensarci, ecco. Perché noi siamo i primi esportatori al mondo, anche se siamo tra i primi importatori, quindi non ci dimentichiamo che essendo i primi esportatori la quantità di olio che noi produciamo non è sufficiente per alimentare questa enorme esportazione, quindi è importante difendere e fare di tutto per difendere questa cultura che poi è simbolo della dieta mediterranea, D'altra parte poi se non riusciamo a bloccarlo, visto che è la prima volta, ripeto, gli entomologi, i patologi che stanno lavorando, è la prima volta che si manifesta sull'ulivo, quindi nessuno sa i rischi potenziali, perciò credo che sia davvero necessario legare questa emergenza come se si trattasse di un terremoto, insomma prendere subito di petto la situazione. Sì, è così, Paolo, che è limitata, si gestisce. È così, perché veramente si rischia di perdere un patrimonio inestimabile che già in parte sta andando in fumo. Quindi le auguro buon lavoro, Paolo De Castro, mi raccomando, e tenere alta la guardia. Grazie a tutti voi. Grazie per la disponibilità. E ora invece saluto il collega del Sole 24 Ore, Giuseppe Chiellino. Buonasera, ciao Giuseppe. Roberta, buonasera agli ascoltatori. Che è venuto a trovarci per dirimere un po' questa questione che si rincorre nelle ultime ore di dati diversi che avrebbe l'Istat rispetto al ministro dell'economia Saccomanni sulla crescita. Ci vuoi un po' spiegare, Giuseppe, se effettivamente sono così dati contrastanti oppure... Ma guarda, in realtà io vorrei gettare un po' d'acqua sul fuoco perché... La lettura che è stata data oggi dei dati e delle dichiarazioni è stata un po' forse affrettata, nel senso che è vero che la stima dell'Istat sulla crescita del PIL per l'anno prossimo è un po' più bassa, quella... cioè 0,7% contro l'1,1% previsto dal governo, ma in realtà leggendo appunto il comunicato dell'Istat è abbastanza evidente che c'è una differenza di valutazione, o comunque l'Istat valuta anche le cose di cui ha parlato poi il ministro Saccomanni nel corso della giornata, ma le valuta in uno scenario un pochino più ottimistico rispetto allo scenario di base, e questo scenario prevede una crescita dell'1%, quindi praticamente identica, cioè solo 0,1 più bassa di quella del governo. La valutazione di Saccomanni e quindi del governo è una valutazione direi sulla fiducia, nel senso che il governo e il ministro dell'economia sperano che con le riforme le cose possano andare, ma soprattutto le condizioni di liquidità, cioè quelle decine di miliardi che nel corso dei mesi scorsi, ancora adesso, ancora in queste settimane, sono il tesoro sta girando alle amministrazioni regionali e locali per rimborsare i debiti pregressi della pubblica amministrazione, e sono tutti soldi, sono tutte risorse che arriveranno progressivamente al sistema produttivo. E quindi lì si capirà se le cose andranno un po' meglio. C'è domani sul Sole 24 Ore un argomento in particolare in questi 35 secondi che ci rimangono, Giuseppe? Ma l'argomento che mi ha incuriosito di più è quello legato all'aumento alla revisione del catasto nel centro di Roma, e il nostro titolo è Batosta sulle case dei Parioli, quindi tutti i colleghi romani una zona ricca diciamo di Roma, però lo stesso scoccia che si alzino le tasse. Grazie Giuseppe Chiellino. Grazie a voi. Grazie Giuseppe, ci fermiamo giusto qualche istante, forse qualcosina di più, però poi ci risentiamo per ricordarvi le notizie principali. A dopo.